Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Su una parte del mondo esiste l'articolo 18 come in Italia, cioè in nessuna parte del mondo, va bene, e in ragione adesso... del licenziamento illegittimo c'è la reintegra. Era l'onorevole Brunetta, Ballarò, martedì. È un'affermazione la sua, è un'affermazione secca e precisa. Ecco, noi abbiamo voluto fare un confronto tra le parole e la verità dei fatti con i nostri amici e collaboratori di Pagella Politica. È vero quello che dice l'onorevole Brunetta? Abbiamo scoperto che non è esatto. Oggi in Italia, infatti, se un lavoratore viene licenziato senza giusta causa, può essere reintegrato nel suo precedente lavoro. Ma è vero che negli altri paesi, come dice Brunetta, non esiste la possibilità di questa tutela? Non è esatto, perché esiste, pur con differenze, la possibilità di reintegro in Austria, in Germania, nei Paesi Bassi, in Polonia, in Portogallo, nella Repubblica Ceca, mentre Spagna e Belgio non prevedono l'obbligo di reintegro. Ovviamente volevamo approfondire questa affermazione con l'onorevole Brunetta, ma purtroppo ha impegni precedenti, inderogabili. Ci ha mandato un documento, le sue precisazioni, però con sfumature diverse più o meno si conferma quello che abbiamo detto. In ogni caso, ovviamente, siamo sempre disposti a parlarne con Brunetta, che è stato nostro ospite tante volte, ma tanto vi dovevamo. Siete sicuri che non sognerete di barottare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi per avere l'occasione, solo un'altra occasione, di tornare qui sul campo ad urlare ai nostri nemici che possono toglierci la vita, ma non ci toglieranno mai la libertà! Alle 7 di questa mattina la Scozia, lo sappiamo tutti, sta votando per decidere se restare nel Regno Unito o separarsi dopo 307 anni di unione. 4 milioni e mezzo di scozzesi risponderanno a questa domanda. Dovrebbe la Scozia essere un paese indipendente? Naturalmente un referendum di portata storica che lascia l'Europa con il fiato sospeso, segnato, un'Europa segnata da minacce, ricatti reciproci su questo referendum. Se gli indipendentisti vinceranno, diremo goodbye alla Scozia. La promessa è arrivata questo mercoledì da tre banche, Royal Bank of Scotland e Lloyds e l'istituto di credito di proprietà australiana Clydesdale. Promettono i tre principali partiti britannici. Nel caso della vittoria del no, riconosceranno maggiori poteri alla Scozia. Cameron ci ha detto quanto rispetti e ammiri la Scozia e il suo popolo. Tuttavia, dietro le quinte, il Tesoro e il suo consulente si sono impegnati molto per galvanizzare le alte sfere economiche perché si parli male del nostro paese. Ecco, secondo voi, Mario, basteranno a fermare gli indipendentisti queste minacce abbastanza dure? Allora, dunque, nelle ultime ore la campagna per il no ha avuto il classico momentum di ripresa, di salto. Gordon Brown ha fatto un paio di interventi molto interessanti, Alistair Darling pure. Insomma, dici che bastano o no? È una corsa veramente sul filo. Pietrangelo? Mi fa impressione la grande mobilitazione internazionale su questo referendum, perché ovviamente c'è un interesse fortissimo da parte di quella che possiamo definire l'alleanza anglo-americana occidentale per scongiurare l'indipendenza della Scozia. C'è da verificare se questa perla purissima, qual è la Scozia, che tra le galassie dell'indipendentismo è quella che ha il maggiore blasone, possa resistere a queste minacce. Lo vedremo più che lusinghe. Comunque il primo ministro scozzese Salamond ha rispedito al mittente i moniti inglesi con un messaggio molto molto chiaro. L'apertura del Regno Unito è un chiaro segnale di panico, perché è evidente che l'elite di Westminster sta perdendo. George Osborne, David Cameron, Ed Miliband e tutta l'elite di Westminster stanno perdendo la loro campagna referendaria. panico o non panico, con una vittoria dei sì, il Regno Unito perderebbe il 10% della sua economia, incluso l'indotto dei giacimenti petroliferi scozzesi, e allo stesso tempo Edimburgo dovrebbe affrontare molte incognite, la bandiera prima di tutto, quale valuta adottare, l'uscita dall'Unione Europea e quanto debito pubblico inglese tenere sulle proprie spalle. Sono problemi assolutamente nuovi, problemi che non sono mai stati affrontati, per cui non esiste una legislazione specifica. Una cosa è sicura: se vincono i sì, la Scozia è fuori dall'Unione. Barroso, quando era ancora presidente della Commissione europea, è stato chiarissimo. Nel caso in cui ci sia un paese che si distacca da uno Stato membro, questo dovrà ripercorrere l'iter di adesione all'Unione Europea e la sua richiesta dovrà poi essere approvata all'unanimità da tutti gli altri Stati membri. Ma sarà molto difficile che questo accada. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Naturalmente, quando Barroso fa questa dichiarazione si riferisce all'articolo 49 del Trattato dell'Unione Europea. Quando una parte del territorio di un paese membro cessa di far parte di quello Stato, i trattati non si applicheranno più a quel territorio. In altre parole, una nuova regione indipendente diverrebbe, in virtù della sua indipendenza, un paese terzo rispetto all'Unione e ai trattati. Questo significa che la Scozia, se sceglierà di ballare da sola, dovrà fare di nuovo domanda di accesso all'Unione. Ecco, ma credo che, per esempio, sarà difficile che la Spagna possa votare a favore, visti i suoi problemi con la Catalogna. Quello che vogliamo capire con il fact-checking di oggi è se quello che prevede il partito indipendentista è vero. Sono solo slogan senza verità oppure no? Salomon, il primo ministro scozzese, ha detto questo. Una Scozia indipendente, con un pieno accesso a tutte le risorse della nostra nazione, sarà la sesta nazione più ricca nel ranking OCSE. È vero. È vero o no? L'abbiamo verificato. La Scozia risulterebbe il paese più ricco della classifica dell'OCSE, il quinto paese nella classifica. Potete vedere la tabella sul nostro account Twitter. Quindi l'affermazione di Salomon è falsa. Addirittura, se la Scozia indipendente riuscisse a ottenere tutte le risorse petrolifere del suo territorio come vorrebbe Salomon, scalerebbe la classifica OCSE dei paesi più ricchi, arrivando al quinto posto. Un altro dato che ci ha colpito ma non stupito è che Italia, Francia e Spagna non sono presenti nei primi 12 paesi. C'è la Germania, però. Sentiamo cosa succede in Spagna. Pioniera delle rivendicazioni delle minoranze è la Catalogna, che da tempo combatte per staccarsi da Madrid. Abbiamo bisogno di esistere come un paese indipendente, non solo in senso astratto, ma come un paese che sia concretamente conveniente per i catalani. E questo non è possibile a causa dell'attuale politica della Spagna. Jordi Pujol, leader del separatismo catalano. Dobbiamo affrontare la sistematica operazione di distruzione dell'autogoverno. Volete sapere se sarà convocato il referendum? Sì, sarà convocato. Quale giorno? Il 9 novembre. Artur Mas, presidente della Catalogna. Ecco, erano Pujol e Artur Mas, perché anche la Spagna dovrà fare i conti col popolo catalano. C'è un rischio concreto di contagio secessionista in tutta l'Europa. 800 24 00 24. Il numero verde 349-238-6666, l'SMS. Mario. Ma questo è uno dei banchi di prova più importanti per l'Unione Europea, sicuramente il più importante del 2014. L'anno prossimo dovrebbe esserci il referendum inglese per decidere se restare sì o no, appunto, nell'Unione Europea. Il rischio di un contagio esiste. D'altronde, insomma, se tu rispondi male a richieste di autonomia crescenti, e gli scozzesi è da 300 anni che fanno questo lavoretto, e negli anni 80 la Thatcher sbagliò completamente l'approccio con loro, mettendo la poll tax mentre loro chiedevano autonomia fiscale, alla fine ne devi trarre un po' le conseguenze, paghi, no? Noi dopo parleremo della Sicilia perché è interessante, ma intanto su questo punto vorrei contagio. Sì, intanto però vorrei fare un salto temporale e dire che noi ancora oggi paghiamo e piangiamo lacrime a seguito di un processo contrario, cioè è stato quello della unificazione delle due Germanie. Ed è un prezzo che abbiamo pagato tutti quanti nel continente europeo. Adesso bisogna vedere se invece, realizzandosi l'indipendenza della Scozia e quindi accendendo il contagio tra tutte le altre realtà, compresa la Lombardia, che viene nominata non a caso premier inglese nel suo discorso, bisogna vedere se invece questo avrà un effetto benefico. Però, come si suol dire, bisogna fare, come dite voi anglosassoni, la prova del budino. Proof is in the pudding. Ecco, noi diciamo che bisogna rompere l'uovo per capire se è buono. Io dico che bisogna rompere le uova per fare la frittata. Ognuno ha il suo rapporto con le uova. Ecco, dicevo che parleremo dopo della Sicilia con Pietrangelo in particolare, perché è lì un po' controcorrente, come Eva Klotz invece, consigliera comunale della provincia di Bolzano, leader della Sud Tirol in Force Partei. Dottoressa Klotz, ecco, il suo movimento tifa per l'indipendenza della Scozia? Non solo tifa, ha anche avuto dei contatti già anni fa e proprio guardiamo tutto con grande speranza. Quindi sperate che la Scozia si stacchi dall'Inghilterra? Sì, in ogni caso che avvenga, la Scozia già ha vinto, perché anche se dovesse venire un no, la Scozia riceverà dall'Inghilterra tante competenze. Ecco, senta, lo volete anche voi? Volete la stessa cosa rispetto all'Italia? Sicuramente, da sempre noi lavoriamo per l'attuazione del diritto all'autodeterminazione, perché il Sud Tirolo non è Italia. Senta, non è Italia, ma quanto riceve di aiuti dall'Italia il Sud Tirolo? Nello statuto di autonomia è previsto che ritornino 90% di tutte le tasse che qui vengono prelevate, ritornino. Però negli ultimi anni, anche in questa materia, lo Stato italiano, con tanti trucchi e tante scuse, non ha mai dato tutti quelli soldi. Senta, dottoressa Klotz, voi volete fare un referendum perché volete unirvi all'Austria? L'attuazione dell'autodeterminazione prevederebbe tre modelli. La popolazione. No, ma il suo decida. Desiderio, dico il suo. Io posso solo dire quello che io farò, perché io ho un voto solo. Sì. La mia preferenza è la riunificazione del Tirolo e finché l'Europa non riconosce la identità di regioni, è il riaggancio all'Austria. Ecco, sì. C'è un rischio che si verifichino nuovi atti di terrorismo nel Sud Tirolo come in passato per spingere su questa strada dell'annessione all'Austria? Lo vede questo pericolo? No, ormai i tempi sono cambiati e tutti adesso proprio hanno la prova che in Scozia e in Catalogna tutto questo processo avviene pacificamente e democraticamente. Quindi non ci sono questi rischi. Ecco, però non sicuramente mi ha, no. Però non mi ha detto quanto ricevete dall'Italia, non mi ha risposto. Vorrei sapere quantitativamente quanti soldi ricevete dall'Italia. Sicuramente al minimo 800 milioni in meno quanto lo Stato ci dovrebbe no, dare. Ma e qui in concreto quanto dovreste ricevere secondo voi? Vorrei la cifra. Sì, quello che compete il nostro bilancio. Mi può dire la cifra? Sì, sarebbero i 5 miliardi. Miliardi, 5 miliardi di euro dovrete ricevere. Invece ricevete 4 miliardi e 2, invece ne ricevete 4. No, mancano ancora quelli che non ci hanno dato negli ultimi 10 anni, mancano in tutto 4 milioni. Senta, miliardi, 4 miliardi. Senta, e l'Austria quanto vi darebbe? Se il Sud Tirolo parteciperebbe all'Austria, tutto si cambierebbe, perché è tutto un altro sistema, è tutto un altro modo di fare, di amministrare. In ogni caso sarebbe più sussidiarietà e anche sicuramente più democrazia. Senta, a gennaio lei ha indetto un referendum senza valore legale, però per l'autodeterminazione del Sud Tirolo. I sì hanno vinto col 92%. Sì. Ma lei quando prevede che riuscirete a staccarvi dall'Italia? Sì. Finalmente, secondo lei? La Scozia e la Catalogna insegnano che prima si deve avere consenso molto grande nella propria popolazione. Naturalmente, lei ha avuto il 92%. Noi 8-2. Sì, noi stiamo andando in quella direzione, sì. E riceviamo sempre più consenso, perché visto che in Italia non funziona più niente, la gente ci ripensa. Senta, ma lei crede nell'Unione Europea o no? Sicuramente, come ci credo, perché è così, se uno anche cambia stanza in questa casa Europa, per questo non è fuori, è sempre dentro, e nel caso della Scozia si vedrà come si comporta l'Unione Europea. Penso che quello che ha detto Cameron è molto molto preciso, no? Nella direzione della difficoltà della Scozia, perché deve rifare tutto il processo di ammissione. Sì, è questa molto la libera scelta, sì. E questa è la libertà, non si può trattenere in un carcere un popolo se vuole andare. Ah, assolutamente, se è un carcere naturalmente sì, no. Se lo sente come un carcere, sì. Devono andare, lasciarli. Un'ultima cosa. Lei è favorevole o no all'euro? Sicuramente. Sicuramente favorevole? Sicuramente favorevole. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. In realtà c'è un grande dibattito negli SMS e nei tweet che ci arrivano. 1, 2, 3 per tutti. Ivan dice: questo referendum indipendentista non sono altro che la dimostrazione del fallimento dell'Europa. Altri dicono: la politica europea, Alessandro Oliviero, la politica europea che svilisce i paesi fa sì che si alimentino voglie di indipendentismo. Roberto da Latina: se la Scozia si stacca succederà un effetto a catena anche per le idee padane in Italia. Insomma, il dibattito, davvero quasi sorprendentemente direi, è forte anche fra i nostri ascoltatori. Ecco, Pietrangelo, tu nel tuo libro Buttanissima Sicilia, un libro che ha avuto molto, che ha molto successo in tutta Italia, scala le classifiche, fai controcorrente invece, sostanzialmente, perché vorresti il contrario, vorresti che l'autonomia della Sicilia finisse, insomma, sempre bastian contrario. No, io ragiono in termini, la mia... No, perché hai difeso la Scozia, l'autonomia della Scozia, invece la Sicilia la appunto, vuoi... Perché una cosa è l'indipendentismo. Per esempio, ricordate la figura di Bobby Sands in Irlanda? Certo. Una cosa invece è l'indipendentismo, per come l'hanno raccontato, per come si concretizzò in Sicilia, appoggiandosi a dei banditi, e infatti c'era Salvatore Giuliano, non c'era certamente l'esercito irlandese di Bobby Sands, c'era l'esercito dell'Evis che era gestito dalla mafia. Una cosa è l'autonomia, quindi, a Bolzano, una cosa invece l'autonomia insomma, in Sicilia. Insomma, stai diventando nordico. No, mi affido ai dati della realtà. La situazione siciliana è quella di una vera e propria tragedia, nel senso che quello che esiste in Scozia, una consapevolezza e soprattutto una radice vera, non c'è in Sicilia. In Sicilia c'è soltanto una gestione pittoresca del potere che ha stabilito di fare di quella terra meravigliosa, qual è la mia terra, la fogna del potere, un luogo marcio dove perfino Montalbano se ne va. Dopo lo sentiamo. Oggi parliamo, prima della pubblicità, parliamo di uno di noi, di Gianluca Nicoletti, che ha scritto un libro, Alla fine qualcosa ci inventeremo, per raccontare la sua vita con suo figlio Tommaso, figlio autistico. Sara Tardelli l'ha intervistato. Gianluca Nicoletti, quando dici qualcosa ci inventeremo, a che cosa ti riferisci? Mi riferisco al fatto che ormai è ora che le famiglie di ragazzi autistici come il mio Tommaso stiano lì a aspettare che passi il tempo, che i genitori invecchino, che i figli crescano, perché nessuno prenderà delle soluzioni congrue ai desideri dei loro figli. Quindi bisogna cominciare a inventarsi qualcosa, darsi da fare, unirsi, svegliarsi, uscire all'aperto, scoprirsi. Perché le persone, le stesse istituzioni non capiscono che cos'è l'autismo? Perché in Italia ancora c'è una profonda, radicale e medievale ignoranza abissale, sia istituzionale che generale, rispetto all'autismo. Ancora esistono tanti pregiudizi che la malattia mentale venga dal diavolo. Ci sono genitori di autistici che portano i figli all'esorcista prima di andare dal neuropsichiatra. Quindi ancora non hanno percepito bene le nostre istituzioni cosa sia l'autismo. È un problema grossissimo, sono 600.000 famiglie che hanno questo problema in Italia. E l'autistico, quando diventa maggiorenne, scompare, diventa un fantasma. Nicoletti, ma è un problema di ignoranza, come ha detto lei, o c'è anche una componente di indifferenza nella nostra società? L'indifferenza generale verso... Rispetto alla sua esperienza personale? In generale l'indifferenza verso la disabilità è abbastanza generalizzata, ma in particolare gli autistici sono disabili molto poco visibili, molto spesso non hanno lo stigma visibile alla loro differenza. Il CENSIS ha fatto un'inchiesta, ha visto che in realtà per gli italiani ancora il disabile è quello che sta sulla carrozzella, gli altri non vengono nemmeno considerati. E poi ripeto, rispetto alla disabilità di tipo psichico c'è un grosso pregiudizio, la gente non lo vuole affrontare perché è qualcosa che segna la stirpe, segna la famiglia, segna il buon nome della famiglia, quindi hanno ancora molta paura. E lei ha avuto paura quando ha saputo che suo figlio era autistico? Certo che ho avuto paura, tutti abbiamo paura, non è una bella cosa sentirsi dire che il proprio figlio sarà segnato a vita da un problema che richiederà un'assistenza continua. Un autistico è felice, allegro, può fare tante cose se ben trattato, se no, altrimenti diventa molto odioso a trattare, ma in realtà ha bisogno sempre di qualcuno vicino per tutta la vita, non può essere lasciato mai solo, e questo è un impegno grosso per una famiglia, perché non è che finisce mai il momento in cui dici ho fatto tutto per mio figlio, finisci prima te, e quando tu finisci che sarà di tuo figlio? Nicoletti, ci provi a dire in sintesi che cos'è l'autismo? Ma l'autismo è una sindrome, cioè un insieme di varie componenti a base soprattutto genetica che crea in un ventaglio molto vasto, in uno spettro molto variabile, quindi è difficile trovare due autistici proprio uguali, dei disturbi nella relazione, gli autistici hanno difficoltà di relazione, e dei disturbi di tipo cognitivo, hanno meno strumenti per capire la realtà rispetto agli altri. Mi dica tre cose da fare subito, secondo lei, che la politica domani mattina dovrebbe fare subito. Per essere veramente un paese civile, come tanti altri paesi sono civilizzati in questa direzione, bisognerebbe fare una legge che imponga la diagnosi precoce dell'autismo entro il 18° mese di vita. È un test che dura 20 minuti, sono delle domande. Potrebbero farle tutti i pediatri quando guardano. Ed è cruciale saperlo il prima possibile. Prima lo sai, prima puoi intervenire con una terapia di tipo comportamentale. Quindi magari mio figlio, se avesse avuto una diagnosi precoce, oggi parlerebbe, e invece non parla. E lei quando l'ha scoperto, quanti anni aveva, Tommy? Ma verso i 3 anni, cominciavano a dirci ma c'è qualcosa, fatelo vedere, ma erano ancora i tempi in cui nessuno si prendeva l'onere di dare una diagnosi certa di autismo, perché non sapevano nemmeno cosa fosse, nemmeno i neuropsichiatri bene. Secondo punto, lavorare sulla scuola, sostegni specializzati. La scuola deve essere il momento in cui il ragazzo viene accompagnato verso il suo futuro, e deve esserci un futuro, non quello di essere rinchiuso in un istituto. Terzo punto, proprio pensare al dopo di noi, che faranno questi ragazzi? Io ce l'ho una proposta, fare una sorta di trust, un format in cui alcune famiglie si mettono insieme le risorse e con l'aiuto della cosa pubblica naturalmente pensano felicemente, finché ancora sono lucidi, all'avvenire dei propri figli. Oggi presenta il suo libro in un modo particolare, creativo come lei, con un flash mob qua a Roma, cioè... Sì, lo presento al CNR, massima istituzione scientifica, che voglio che abbia un valore scientifico, razionale, concreto, non spiritistico o sentimentale. Ma in realtà farò qualcosa che difficilmente si vede. Porterò una ventina di mamme di autistici con i loro ragazzi a bordo, con delle macchinette elettriche, a prendere possesso silenzioso della città di Roma. Andremo fino sotto al nascondiglio del sindaco Marino. Fagli vedere gli autistici, così li vede, magari se no li confonde con gli autisti, è un'altra cosa. Così li vede. Ma poi vede gli che... piaceranno, no? Con la macchina elettrica. Sì, sono silenziosissime, ecologiche, bellissime. Gli autistici hanno una ipersensibilità, loro danno fastidio ai rumori, quindi è il mezzo elettrico. E le madri finalmente porteranno i figli in centro, sennò per loro è molto difficile farlo. Grazie mille. Grazie a voi. Mix 24. Era chiamata Buccuzza di Ciuri, faceva l'amore, allo faceva di tutte maniere, del capo, da sotto, davanti e da arreri, quando scendevo alla stazione. Un paesaggio campesino, passo a donare un vecchio carose, che ogni romano con ne un partino, c'è volo fa perché ci si gira, e c'è qui invece di cinne praia. La versione... La versione di Ciuri. perché un cespo tutto di sorprese e di grazia è sbucato di improvviso. Si chiamano lacrime d'inverno, sono dei fiori particolari. E però non sono fiori fighetti, ma sono portavoce di cuore, se non di vita. E siccome tutti sono tornati ai giorni operosi, i ciuri, che sono orgogliosi di tanti umori dolcissimi, mitragliano queste lacrime che diventano perle, scrigni dove in inverno ciascuno mette a dimora la propria infanzia e magari ci gioca con una vucuzza tutta di ciuri. Mario Incudine. Sanno dire manco Dio, ho così una vecchia schettosa e agita, senza né figli, senza che dogli, se voglio con la pozzolona, e che vado zanno la sadocena. Dall'amore alle triste notti, Mario. No. Sentiamo cosa bolle in pentola. Prego, signori. Bollicine e... Io non creo niente, io possecco. E noi facciamo le regole. Le notizie, le guerre, la pace, le carestie, le sommosse, il prezzo di uno spillo. Tiriamo fuori i conigli dal cilindro mentre gli altri seduti si domandano come accidenti abbiamo fatto. Non sarai tanto ingenuo da credere che noi viviamo in una democrazia, vero, Buddy? È il libero mercato. E tu ne fai parte. È il libero, mercato. E voi ne fate parte. Allora, mentre la Scozia vota, a Wall Street si preparano al debutto, l'abbiamo già anticipato anche ieri, sì, di Alibaba, chiamatelo come volete, a me piace Alibaba. E dovrebbe raccogliere circa 25 miliardi di dollari, e, quindi un'offerta pubblica molto importante, una delle quotazioni più importanti dell'anno. Confermerà la febbre dai tech ancora per un po', vediamo quanto dura. Apple, avete visto, ha presentato alcuni giorni fa i suoi nuovi iPhone, sono un po' più grandi, riguarda sostanzialmente sì, la però oramai si raschia il barile, lo so, assolutamente d'accordo con te. Facebook continua a macinare ricavi, Twitter sta affinando il suo modello di business, succedono cose, non ci sono dubbi. Il problema è che tutti parlano di utili, pochi di posti di lavoro. Se poi andate a vedere esattamente che cosa succede in quel mercato, che è il mercato della cosiddetta sopravvivenza, lo chiamo io, Facebook ha 7.185 dipendenti a giugno di quest'anno, General Motors 219.000. Piccola domandina da uomo della strada: chi è più importante per la società? Se ne accorgeranno. Secondo me sì, perché sai, fanno utili ma distruggono posti di lavoro, cioè prima o poi ci sarà una responsabilità. È il discorso che facevi ieri sul dislivello, certo, cioè c'è qualcosa che in questo capitalismo non va bene, va corretto. Questa nessuno vuole mettere principi regolatori sbagliati, ovviamente. Io sono un liberale e un liberista anche, però insomma, se non vediamo queste cose allora siamo completamente ciechi. Pensa alla grande, sii ottimista, non dare mai segni di debolezza, mira sempre dritto alla gola, compra poco e vendi a molto. La paura è un problema che non ti riguarda. Non ci riguarda il problema della paura, Giovanni? Ci riguarda. Vabbè, banche centrali, ieri avevamo preannunciato che ci sarebbero stati un po' di movimenti. La Fed ha confermato il taglio del programma di acquisto di titoli, altri 10 miliardi. Sta lentamente... Ha cambiato linea, insomma. Sì, l'economia americana si è comunque ripresa, è l'unica ripresa che c'è, francamente. La Yellen ha confermato che i tassi staranno bassi ancora per un po', vedremo. In Europa deve partire il piano di prestiti da 400 miliardi della BCE. In Giappone il governatore Kuroda ha assicurato che non ci saranno problemi nel sostenere lo yen, che in questo momento è deprezzato. Tutto bene, tu che ne pensi? Non lo so, io ho qualche dubbio, perché poi la ripresa c'è solo negli Stati Uniti allo stato attuale. E poi senza posti di lavoro, come ci hai spiegato. Con pochi posti di lavoro, nessuna ripresa dell'occupazione. Vabbè, non voglio essere noioso, però insomma è l'economia reale. Welcome questo. Back to the reality. Vabbè, proviamo a divertirci un po'. Salamino! Però non è divertimento, anzi è preoccupazione, perché c'è un subbuglio ormai, una preoccupazione che coinvolge le questure di Italia. Un commissario lascia la propria sede per ragioni di forza maggiore, e però pare non sia così. È solo un equivoco, perché anche ai tempi di Modugno, il mitico Mimmo, per questioni di marketing doveva atteggiarsi a siciliano. Insomma, adesso bisogna capire se è Vigata oppure è il Salento. Io vi sottopongo ad una prova, ascoltate. Oh Madonna benedetta dell'ingoroneta di Poggia Cinofila. Ecco, secondo voi che cosa ha detto? Oh, traduci, traduci. Ha detto Bedda Mace dello Carmeno. Ora, un'altra prova, scusa, ascoltate. Uomo, fermati, no, te lo devo dire, ce l'ho sulla punta dei polmoni. Io ti odio a te, hai capito? È un fatto di pelle. In senso epidermico? No, di pelle, di rottura di pelle. Ma hai rotto la pelle! Ecco, seconda prova. Che cosa ha detto? Cos'è questa questione epidermica, secondo te, Giovanni? La rottura di pelle. No, sono i famosi cabasisi. I famosi cabasisi. Ascoltate quest'altro pezzetto. E la copia di tutte le lettere che ha scritto e di quelle che ha ricevuto, che sono tante. Affari. Affari. Quale affare affari, dottore? Lettere di Pilo sono. Non ho capito. Lettere d'amore. Ma non proprio, dottore. Ho capito, cadere. Senti, invece quei dischetti che ci teneva? Cose vastate, dottore. Fotografie di mascolo con femmine, femmine con femmine, mascolo con mascolo, femmine con armale. Capito, Catarelli. Stampami tutto. Ecco, secondo voi chi era a parlare? Tra chi è il dialogo? Tra la Puglia e la Sicilia. Allora, Puglia e Sicilia. Questo è il dialogo tra un sottoposto e il suo commissario, niente meno che il commissario Zagaria, che ama la mamma e anche la polizia, cioè Lino Bambi. Si è creata una confusione. L'unica certezza qual è? Che questo qui, il commissario Montalbano, sono, lascia la Sicilia e resta Crocetta. Ma vai, Sara, con la quota rosa. Ieri vi volevo raccontare, aiutavamo Giovanni a usare il suo nuovo telefonino, no? E sono delle piccole soddisfazioni della vita quello di insegnargli qualcosa. E abbiamo scoperto che non poteva telefonare, ragazzi. Oh, una tragedia. Allora, da bravi giornalisti, ci abbiamo voluto vedere chiaro e abbiamo chiamato il numero clienti di una nota compagnia telefonica che diceva questo. Il tuo credito residuo è negativo perché è avvenuto il rinnovo automatico della promozione attiva sul tuo numero. Per chiamare, inviare sms, usare i minuti e i messaggi gratuiti delle tue promozioni, è necessario ricaricare la tua scheda. Scusate, ho capito bene oppure la voce dice che se vuoi usare i tuoi minuti gratuiti devi pagare? Sì, è più o meno. Io ho capito. E in italiano come si chiama questa costruzione della frase? Cioè, È una sola. Mi sembrava, volevo però la vostra conferma. Una sola linguistica, quantomeno. Almeno, poco chiaro. Allora, mi chiedo, voi che ci state ascoltando, per colpa di una compagnia telefonica, vi è capitato di, non so, perdere un appuntamento amoroso o addirittura un'opportunità di lavoro o una fidanzata? Raccontatelo a Don Pietrangelo e Donna Sara alla nostra mail mix24@radio24.it. Mix 24 800 24 00 24, numero verde, sms 349 238 6666, per chi vuole indovinare il canzoniere. Ben conscio dei miei limiti, a tuo favore posso tirar fuori storie di manchevolezze di cui sono colpevole, così che, perdendomi, sei tu che vinci. E con questo vincerò anch'io, perché rivolgendo a te ogni mio pensiero d'amore, le ferite che io mi infliggo, essendo a tuo vantaggio, ne recheranno il doppio a me. Tale è il bene che ti voglio, ti appartengo tanto che per darti ragione mi assumerò ogni torto. Ancora il numero 800 24 00 24, il numero verde 349 238 6666, l'SMS. Mario, c'è ancora una bocca. Sì. Allora, ma dunque, sentite qua. Insomma, alla festa di gala della New York Philharmonic si cerba il cinema italiano, Giovanni. Questo per me è solo un chiodo, in realtà, per appendere un quadro, per, certo, dire che cosa, per sollecitare tutti quelli che ci ascoltano e anche noi stessi, che ne abbiamo bisogno sempre. Insomma, guardate un attimo la programmazione sui canali pubblici e privati delle televisioni. In gran parte, diciamoci la verità, è robaccia. E poi mi viene una considerazione: ma se Martin Scorsese durante il gala esalta la capacità degli italiani di sposare la musica, le immagini, appunto, a Marcord, Fellini, Nino Rota, che fanno questo, certo, capolavoro assoluto, Beh, ma allora forse noi italiani dobbiamo imparare ad apprezzare quello che abbiamo, quello che siamo stati, quello che forse potremmo essere se recuperassimo questo spirito. E sarebbe il caso, ne parleremo presto, perché è proprio uno dei problemi della nuova produzione seriale televisiva. Gli americani vengono in Europa a cercare idee. Pietrangelo, inizia la posta del cuore? Inizia! E la prima lettera. Caro Don Pietro, ho fatto una passeggiata nella proprietà di mio padre con quello che fino a ieri pensavo fosse il mio uomo. A un certo punto mi ha detto: vuoi un fico d'India? Certo che sì, ho risposto. Ma lui ha fatto qualcosa di irreparabile. Ha detto: torno subito a casa e prendo i guanti da cucina. Capisce, Don Pietro, i guanti. Come una femminuccia che teme di farsi la bua con le spine. Don Pietro, m'ho fatto bene a lasciarlo. Annarita, la dubbiosa. Annarita carissima, ha fatto bene, benissimo a lasciarlo. Un uomo che raccoglie i fichi d'India con i guanti è capace di tutto, capace di chiamare il carro attrezzi per una gomma a terra, capace di mandare a memoria tutto l'elenco degli intervenuti alla Leopolda, capace di guardare Floris, Fabio Fazio. Dunque, Annarita carissima, io le suggerisco di fare acqua davanti, vento dietro e sapone nelle scarpe di questo, chiamiamolo così, uomo. Un vero uomo, insomma, le prende con le mani le fichi d'India, tutt'al più per rinfrescarle un secchio d'acqua. Si fa così. Ma ci sono le spine. E l'uomo vero non ha paura delle spine. Mario, tutt'al più, scusa. Tutt'al più una sola spina nel cuore. Abbiamo il vincitore del canzoniere? Non ancora? No, niente, non fate delle domande troppo difficili. Un altro indizio. Perfino quando Giovanni ha cominciato a dare il numero verde, è già nel primo numero c'è un indizio. Nell'otto. Otto. Insomma, Shakespeare, 88, sonetto 88, William Shakespeare. Oh, lei ha vinto una bambolina. Basta. Il 18 settembre del 1942 nasceva Gabriella Ferri. E oggi con Marina Milone raccontiamo questa grande artista romana, profonda, malinconica, ma anche ironica, come quando parla di sé e del suo amore per l'imprenditore Seva Borzac. Come l'ho visto, ho sentito il nonno in carrozza, si dice a Roma, no? Nel cervello. I bersaglieri sono arrivati, i bersaglieri, con la piuma sul cappello, è arrivato pure quello. Sì, invece proprio non mi si filava in niente. Diciamo simpatia a prima vista, perché io non credo a questi amori di prima vista, sono infatuazioni. Giuseppe Russo l'aveva indovinata, l'ha scritto, forse sono i sonetti di Shakespeare. Però 88, certo. È facile dire Shakespeare. Era una cosa. Va bene, quindi sto libro Feltrinelli lo mandiamo a lui? Mezzo libro, gli mandiamo mezzo libro. Senti, ma Gabriella Ferri ti piace o no? Tantissimo, come no? Ha cantato, perché era stata scritta invece da Mario Castellacci quella bellissima canzone che è sempre, che un po' corrisponde per gli italiani a ciò che per i francesi è stata di Piaf. Sempre una canzone perfetta per la soldataglia, e la soldataglia è sempre quella pronta. Ti piace, al traguardo del cuore. Senti, a te Mario? Sì, bello. Bello, me lo ricordo quando era bambino io, questo personaggio con questi capelli biondi, sì. E a te Sara piace? Gabriella Ferri? Sì. Mi emoziona molto, soprattutto perché so che ha avuto una vita difficile. Cosa non ti emoziona a te, Tardelli? Vabbè. Potevo essere cattiva, ma non lo sarò.